La famiglia. La famiglia è la prima realtà sociale istituita da Allah nel suo piano di creazione degli uomini nello spazio e nel tempo. Il rapporto genitoriale uomo-donna è islamicamente legittimato dal matrimonio, stipulato sulla base del libro di Allah e della sunna del suo apostolo. Il matrimonio è un contratto civile che attribuisce ai coniugi diritti e impone loro doveri ben definiti dalla Sharia. Data l'importanza fondamentale della famiglia, oltre che per la trasmissione della vita, anche per la trasmissione del patrimonio religioso e culturale, la Sharia regola i rapporti tra i coniugi, tra loro e con la prole, fissando precisi ambiti di responsabilità. Inoltre, l'ordinamento provvede con un complesso di norme a prevenire e sanzionare tutti i comportamenti lesivi della dignità umana da cui possono derivare effetti devastanti per la società. Ecco che a tutela della famiglia sono condannati i rapporti sessuali extraconiugali, sono prescritte norme per l'abbigliamento maschile e femminile, è vietata la promiscuità, la musica e la pittura, la diffusione di oscenità e aberrazioni. Il matrimonio ha una forma semplice, può essere stipulato dappertutto, davanti a due testimoni, per la sua rilevanza sociale, con il consenso del responsabile della sposa e con la dazione da parte del marito di una dote nuziale, sudaqqa. Il marito ha la posizione di capofamiglia, ha potestà maritale sulla moglie e patria potestà sui figli. In base a tale potestà gli è riconosciuto uno ius corrigendi nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge per tenere l'ordine e la disciplina islamica all'interno della famiglia di cui porta la responsabilità di fronte ad Allah. Il marito deve provvedere al mantenimento della moglie in una casa decorosa, assicurandole un tenore di vita non inferiore a quello di cui godeva nella casa paterna, rispettando la sua integrità fisica, il suo patrimonio personale, il suo onore, la sua dignità di persona, adempiendo al debito coniugale secondo le regole stabilite dal sublime Corano e dalla nobile Sunna. Il marito, inoltre, ha il dovere di astenersi da richieste irragionevoli o contra legge, ha il dovere, se necessario, di istruirla nella religione e nel comportamento islamico. Nei confronti dei figli ha il dovere del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione. La moglie ha nei confronti del marito i diritti che sono complementari ai doveri del marito nei suoi confronti e nei di lui confronti ha il dovere di obbedienza quando l'ordine non sia irragionevole o in contrasto con la legge o fuori dei doveri coniugali. Ha il dovere di occuparsi del ristoro materiale e spirituale del marito, di occuparsi della casa e dell'allevamento dei figli. I figli hanno diritti nei confronti dei genitori ad avere quello che costituisce i doveri di quelli nei loro confronti e nei loro confronti hanno il dovere dell'obbedienza, del rispetto e del sostegno. Con le loro direttive, il sublime Corano e la nobile Sunna hanno come scopo il rafforzamento del vincolo matrimoniale e la stabilità della famiglia. Se il rapporto coniugale fallisce e il tenerlo in vita ha conseguenze deleterie sia per i coniugi che per la prole, la legge prevede lo scioglimento del vincolo matrimoniale dandone il potere al marito. In particolari casi, anche alla moglie è dato il diritto di ricorrere ai tribunali islamici per l'annullamento del matrimonio quando esso sia divenuto islamicamente insostenibile.